permetti di uscire con te e non sai capire che l'amore non avrai mai da me. Sono qui, sono qui ed aspetto. Chi mi può far felice? Ma tu non sei il ragazzo che ruberà